alta voce. Agnese Nano legge Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Traduzione di Marisa Sestito. Nona puntata. Un quadro e un anello. Dietro la parte più antica di Holborn, a Londra, dove certe case timpanate vecchie di secoli se ne stanno ancora affacciate sulla pubblica via, c'è un cantuccio formato da due quadrilateri irregolari chiamato Staple Inn. È uno di quei cantucci che dà al pedone, lasciatosi con sollievo alle spalle il frastuono della strada, la sensazione di essersi turato le orecchie con l'ovatta e foderato le suole col velluto. È uno di quei cantucci dove pochi passeri fuligginosi cinguettano su alberi fuliginosi come gridandosi l'un l'altro «giochiamo alla campagna?» e facendo quella tonificante violenza ai loro cervellini, illusi da un esiguo spessore di terriccio e da un'angusta estensione di ghiaia. È anche uno di quei cantucci che hanno una qualche funzione legale e contiene un piccolo edificio municipale con una lanternina sul tetto, a quali ostacolanti scopi dedicato e a spese di chi è ignoto a questa storia. Nei giorni in cui Cloisterham si indignava per l'esistenza di una remota linea ferroviaria, considerata una minaccia per quella delicata costituzione che è una proprietà di noi britanni, una sacra istituzione, il cui strano destino è di essere in parti uguali data per spacciata, difesa con trepidazione e sbandierata ai quattro venti, qualunque cosa accada in qualunque parte del mondo. In quei giorni lì vicino non si erano ancora innalzate architetture imponenti a oscurare Staple Inn. Il sole di ponente vi gettava i suoi sguardi radiosi e il vento di sud-ovest vi entrava soffiando liberamente. Né vento né sole, tuttavia, favorivano Staple Inn un pomeriggio invernale verso le 6, quando la nebbia era fitta e dalle finestre degli alloggi, allora tutti occupati, le candele mandavano foschi raggi indistinti. Li mandavano in particolare da una casa d'angolo del piccolo quadrilatero interno, sul cui brutto portale compariva in bianco e nero la misteriosa iscrizione PJT 1747. Alloggio in cui, senza essersi mai scervellato sull'iscrizione, se non per considerare alzando gli occhi di tanto in tanto che poteva significare presumibilmente John Thomas o presumibilmente Joe Tyler, sedeva Grugius vicino al fuoco, intento a scrivere. Mentre quel pomeriggio Grugius sedeva vicino al fuoco intento a scrivere, l'impiegato di Grugius sedeva intento a scrivere vicino al suo fuoco. Un pallido trentenne, con una faccia gonfia, capelli scuri, grandi occhi scuri del tutto opachi, una carnagione flaccida e scontenta, simile ad una pagnotta cruda che andava infornata, questo impiegato era un essere misterioso, fornito di uno strano potere su Grugius. Come un genio, evocato da un incantesimo che si era inceppato al momento di farlo sparire, stava tenacemente attaccato allo sgabello di Grugius, anche se questi ne avrebbe manifestatamente guadagnato incomodità e convenienza se l'avesse disconosciuto. E tuttavia Grugius lo trattava con inspiegabile considerazione. «Allora, Buzzard?» disse Grugius mentre l'impiegato entrava e sollevava lo sguardo dalle carte che stava mettendo a posto per la notte. «Cosa ci porta il vento oltre la nebbia?» «Il signor Drood», disse Buzzard. «Che mi dite di lui?» «È passato», disse Buzzard. «Potevate farlo entrare?» «Lo sto facendo», disse Buzzard. Di conseguenza il visitatore entrò. «Buon Dio», disse Grugius, guardando al di là delle sue due candele. «Pensavo che foste solo passato, lasciando il vostro nome prima di andarvene. Come state, Edwin?» «Buon Dio, siete senza fiato!» «È la nebbia», rispose Edwin. «Mi fa bruciare gli occhi come pepe di cayenna!» Immagino, senza avere il dono della profezia, che mi abbiate fatto il favore di passare per dirmi che andate da quelle parti, dove posso assicurarvi che siete atteso, e per chiedermi se ho qualche piccola commissione da affidarvi per la mia attraente pupilla. O forse per pungolarmi un po' riguardo a certe procedure? Giusto, Edwin? Sono passato prima di partire in segno di riguardo. Di riguardo, disse Grugius. Ah, certo, non di impazienza. Impazienza, signore. Grugius aveva inteso essere malizioso, non che lontanamente riuscisse ad esprimere quell'intenzione, e si era portato in rischiosa prossimità del camino, quasi per incidervi a fuoco la nitida immagine della sua malizia. Ma poiché la sua malizia svanì all'improvviso di fronte alla compostezza di faccia e modi dell'ospite, rimase solo il fuoco e lui si spostò di colpo, strofinandosi con vigore. «Da quelle parti ci sono stato di recente», disse Grugius, risistemandosi le falde. «Mi riferivo a questo, dicendo di esser certo che eravate atteso». «Sì, lo sapevo che Pussy stava di viedetta in attesa del mio arrivo». «Avete un gatto laggiù?» chiese Grugius. Edwin arrossì lievemente, spiegando: «Rosa la chiamo Pussy». «Ma davvero?» disse Grugius, lisciandosi la testa. «Che carino». Edwin lo guardò, incerto se avesse serie obiezioni sull'appellativo, ma tanto valeva che guardasse il quadrante di un orologio. Buzzard tornò accompagnato da due camerieri, uno fisso e l'altro volante, e tutti e tre si portarono dietro una folata di nebbia che fece di nuovo ruggire il fuoco. Il cameriere volante, che aveva portato tutto sulle spalle, apparecchiò con sorprendente rapidità e destrezza, mentre il cameriere fisso, che non aveva portato niente, trovava da ridire. Poi il cameriere volante lucidò e lustrò i bicchieri che aveva portato, e il cameriere fisso li guardò in controluce. Poi il cameriere volante attraversò la strada al volo per prendere la minestra e tornò al volo, e poi si rimise in volo per prendere la carne e il pollame e tornò al volo, e nelle pause spiccò voli supplementari per prendere gli articoli più svariati, mentre man mano si scopriva che il cameriere fisso se li era scordati tutti. A conclusione del pasto, quando il cameriere volante era ormai del tutto sfiancato, il cameriere fisso piegò la tovaglia sotto il braccio con aria maestosa e, dopo aver osservato con severità, per non dire indignazione, il cameriere volante che metteva in tavola i bicchieri puliti, si accomiatò da Grugius con uno sguardo esplicito: «Si è inteso che la mancia spetta a me e che il compenso di questo schiavo ammonta a zero», e spinse il cameriere volante fuori dalla stanza davanti a sé. Il padrone di casa era sceso in cantina ed era tornato con bottiglie di vini color cremisi, dorato, paglierino, maturati in tempi lontani in terre dove non esiste la nebbia, e rimasti da allora a giacere nell'ombra, addormentati, spumeggianti e frementi dopo un così lungo sonno, spingevano contro i turaccioli per aiutare il cavatappi, come prigionieri accorsi in aiuto dei rivoltosi per forzare i cancelli del carcere, e uscivano danzando gioiosamente. Esteriormente Grugius non dava segni di essersi ammorbidito per effetto di questi splendidi vini d'annata. Vista la povertà di luci e ombre che gli baluginavano in viso, tanto valeva che invece di berli li avesse sprecati, facendoseli versare addosso nella sua qualità di tabacco da fiuto extra secco. Neanche le sue maniere ne erano influenzate. Eppure, in quel modo legnoso che gli era proprio, aveva occhi attenti per Edwin, e quando, dopo mangiato, gli offrì di nuovo la poltrona accanto al camino e il giovane vi sprofondò deliziato dopo una breve resistenza, si sarebbe potuto notare che mentre girava anche lui la sedia verso il fuoco e si lisciava la testa e la faccia, stava osservando l'ospite tra le dita liscianti. «Buzzard», disse Grugius voltandosi verso di lui all'improvviso. «Vi seguo, signore», rispose Buzzard, che aveva eseguito il suo lavoro consumando carne e vino con grande professionalità, anche se sostanzialmente in silenzio. «Bevo la vostra salute, Buzzard». «Edwin, al successo di Buzzard». Al suo successo, fece eco Edwin, con un'espressione entusiastica del tutto infondata e una tacita aggiunta in chissà cosa. «E possa», proseguì Grugius, «non mi è consentito di essere preciso, possa, con la mia ridotta capacità di conversare, lo so che non ne uscirò bene, possa, dovrei renderlo con una bella immagine, ma di immaginazione non ne ho, possa, oltre la spina dell'ansia non mi riesce di andare, possa infine venir fuori». Buzzard, con un sorriso cupo rivolto al fuoco, si mise una mano nei ricci arruffati, come se la spina dell'ansia fosse lì, poi nel panciotto, come se fosse lì, poi nelle tasche, come se fosse lì. Edwin ne osservava attentamente i movimenti, quasi aspettandosi di vedere la spina in azione, che tuttavia non comparve, e Buzzard si limitò a dire: «Vi seguo, signore, e vi ringrazio». «E adesso», disse Grugius, facendo tintinnare il bicchiere mentre lo poggiava sul tavolo con una mano e si schermava con l'altra piegandosi verso Edwin, sussurrando, «faccio un brindisi alla mia pupilla. Il primo l'ho dedicato a Buzzard, se no magari si seccava». Lo disse con una misteriosa strizzatina d'occhi, o con quella che sarebbe stata una strizzatina se, affidata a Grugius, fosse stata sufficientemente rapida. Così Edwin rispose facendo l'occhiolino, senza la più pallida idea del perché lo facesse. «E ora», disse Grugius, «sollevo il calice alla mia bella e affascinante pupilla. Buzzard, alla bella e affascinante signorina Rosa». «Vi seguo, signore, e mi unisco al brindisi», disse Buzzard. «E anch'io», disse Edwin. «Buon Dio!» esclamò Grugius, spezzando il vuoto del silenzio che ovviamente seguì. Ma chi può dire perché queste pause si verifichino puntualmente dopo che si sia compiuto un qualche piccolo rito sociale, che di per sé non implichi un'analisi interiore o uno stato di avvilimento? «Puntuto come sono, riesco a immaginare, se mi è concessa la parola, visto che non ho un briciolo di immaginazione, che stanotte saprei dipingere lo stato d'animo del vero innamorato». «Vi seguiamo, signore», disse Buzzard. «Dateci il quadro». «Edwin lo correggerà se è sbagliato», riprese Grugius, aggiungendo qualche tocco di vita vissuta. «Non esito a dirlo. Molti particolari sono sbagliati e molti tocchi di vita mancano, ma è che sono nato truciolo e non ho tenere simpatie né tenere esperienze. Dunque, oso supporre che la mente del vero innamorato sia permeata in ogni sua parte dalla persona amata. Oso supporre che il suo caro nome sia prezioso per lui, che non possa sentirlo o esprimerlo senza emozione, che lo custodisca come una cosa sacra. Se la chiama con un appellativo affettuoso, esso è riservato a lei soltanto. Non è destinato a orecchie comuni. Un nome che sarebbe un privilegio rivolgerle nei momenti solitari trascorsi insieme a lei, radiosa creatura, ma che sarebbe una licenza, un segno di fredda insensibilità, un tradimento della buona fede ostentare altrove». Era stupefacente vedere Grugius seduto dritto come un fuso, con le mani sulle ginocchia, che mandava fuori a getto continuo le schegge di questo discorso, proprio come un bambino della scuola dei poveri che reciti il catechismo a memoria, senza ricavarne emozioni corrispondenti alle parole, tranne un certo impercettibile occasionale fremito della punta del naso. «Il mio quadro», riprese Grugius, «passa poi a rappresentare, correggetemi se sbaglio, Edwin, il vero innamorato nella sua perenne impazienza di trovarsi accanto alla persona amata o nelle sue immediate vicinanze, indifferente all'attrattiva di altre compagnie, alla continua ricerca di quella soltanto. Se dicessi che la cerca come un uccellino cerca il nido, sarei proprio un bell'asino, perché andrei a sconfinare nel campo della poesia, ma da questo me ne guardo bene, e per quanto ne so, alla poesia non ci sono mai andato più vicino di 10.000 miglia. Tra l'altro, ignoro del tutto le abitudini degli uccellini, tranne quelli di Staple Inn, che cercano il nido sui cornicioni, nelle grondaie, nei comignoli, ma quelli non li ha costruiti per loro la mano benevola della natura. Resti pertanto inteso che di uccellini e nido faccio a meno. Ma il mio quadro rappresenta il vero innamorato come uno incapace di avere un'esistenza divisa da quella della persona amata e come uno che vive allo stesso tempo una vita doppia e una vita dimezzata. Se non esprimo chiaramente ciò che voglio dire con questo è perché, viste le mie inesistenti capacità di conversare, non sono in grado di esprimere ciò che voglio dire, oppure perché, non volendo dire niente, non voglio dire ciò che non sono in grado di esprimere. Ma questo, ne sono profondamente convinto, non è il mio caso. Edwin era arrossito e sbiancato man mano che venivano in luce alcuni tratti del quadro. Ora sedeva con gli occhi sul fuoco, mordendosi il labbro. Le speculazioni di un uomo puntuto su un tema tondo come questo, riprese Grugius sedendo e parlando esattamente come prima, sono probabilmente errate, ma mi figuro, di nuovo correggetemi se sbaglio, Edwin, che un vero innamorato non possa essere freddo, svogliato, incerto, indifferente e non possa avere un animo che sta a metà tra il fuoco e il fumo. Ditemi, questo mio quadro coglie in qualche modo nel segno? Brusco nella conclusione, come nell'esordio e nello svolgimento, lanciò la domanda a Edwin e tacque di colpo, quando si poteva pensare che fosse ancora a metà del discorso. Direi, signore, balbettò Edwin, visto che lo domanda a me. Sì, lo domando a voi, come a un'autorità in materia. Direi allora, proseguì Edwin con imbarazzo, che il quadro che avete tracciato è sostanzialmente corretto, ma penso che forse siete troppo duro col povero innamorato. Probabile, assentì Grugius. Sono un uomo di gran natura. Lui forse non mostra, disse Edwin, tutto ciò che sente, o forse non può. E si fermò così a lungo a cercare la parte mancante della frase che Grugius gli rese il compito mille volte più arduo, intromettendosi inaspettatamente. Certo che no, non può. Dopodiché tutti e tre rimasero in silenzio. Buzzard a causa del sonno. E tuttavia ha una responsabilità enorme, disse infine Grugius fissando il fuoco. Edwin annuì, fissando il fuoco anche lui. E deve fare attenzione a non prendere in giro nessuno, disse Grugius, né se stesso né qualcun altro. Edwin si morse di nuovo il labbro e continuò a guardare il fuoco. Non deve ridurre un tesoro a un giocattolo. Guai a lui se lo fa. Questo lo deve tenere bene a mente, disse Grugius. Sebbene si esprimesse in frasi brevi, più o meno come il suddetto bambino della scuola dei poveri avrebbe potuto ripetere uno o due versetti del libro dei proverbi, c'era qualcosa di sognante, per un uomo tanto prosaico, nel modo in cui agitò l'indice destro verso i carboni ardenti del camino. Poi di nuovo tacque. Ma non a lungo. Mentre sedeva dritto e rigido sulla sedia, improvvisamente si colpì le ginocchia, come l'effigie scolpita di un qualche strano idolo cinese risvegliatosi da un sogno ad occhi aperti, e disse: «Dobbiamo finire la bottiglia, Edwin. Lasciate che vi riempia il bicchiere. Lo riempio pure a Buzzard, anche se dorme, sennò magari si secca». Versò il vino ad entrambi e lo versò a se stesso. E vuotò il bicchiere e lo appoggiò rovesciato sul tavolo come se avesse appena catturato un moscone. «E ora», proseguì, pulendosi bocca e mani col fazzoletto, «rimane una piccola questione d'affari. L'altro giorno vi ho fatto avere una copia certificata del testamento del padre di Rosa. L'avrei dovuta mandare a Jasper se non fosse stato per l'esplicito desiderio di Rosa che arrivasse direttamente a voi. L'avete ricevuta?» «Sì, certamente». «Avreste dovuto confermare il ricevimento», disse Grugius, «visto che gli affari sono affari in ogni parte del mondo, ma non l'avete fatto». «Intendevo farlo stasera, quando sono arrivato». «Una procedura inconsueta», rispose Grugius, «ma pazienza. Ora, in quel documento Avrete notato un cortese accenno al fatto che spetta a me decidere il momento opportuno per consegnare un piccolo lascito che mi è stato affidato in custodia verbalmente. Sì, signore. Mi veniva in mente proprio adesso, guardando il fuoco, che per separarmi da quel lascito non vi potrebbe essere un momento migliore di questo. Prestatemi la vostra attenzione per mezzo minuto. Prese un mazzo di chiavi dalla tasca e poi, con la candela in mano, si avvicinò a uno scrittoio o secretaire, l'aprì, fece scattare la molla di un cassettino segreto e ne tirò fuori un comune astuccio fatto per contenere un anello. Tenendolo in mano, tornò alla sedia. Nel sollevarlo perché il giovane lo vedesse, la mano gli tremava. Edwin, questo anello, una rosa di diamanti e rubini delicatamente montati in oro, apparteneva alla madre di Rosa. Fu levato dalla sua mano senza vita in mia presenza e spero di non dover vedere mai più un dolore così atroce. Con tutta la mia durezza, non sono abbastanza duro per una cosa del genere. Guardate la luce di queste pietre, aprendo l'astuccio. Eppure gli occhi che erano tanto più lucenti e che tante volte le avevano guardate con gioia e orgoglio sono da anni cenere nella cenere e polvere nella polvere. Se avessi un po' di immaginazione, inutile dire che non ne ho, potrei immaginare che la bellezza di queste pietre che dura nel tempo sia quasi crudele. Mentre parlava richiuse l'astuccio. Quest'anello fu donato alla giovinetta annegata così prematuramente nella sua vita bella e felice dal marito, quando per la prima volta si erano promessi fedeltà. Fu lui a levarlo dalla sua mano insensibile e fu lui, ormai vicino alla morte, a metterlo nella mia. Lo ricevetti in custodia con l'impegno che se il fidanzamento andava a buon fine l'avrei dato a voi perché lo metteste al dito di Rosa una volta diventati un uomo e una donna. Se invece quell'esito atteso falliva, doveva rimanere in mio possesso. Una certa inquietudine era sul volto del giovane e una certa indecisione nel gesto della sua mano mentre Grugius, guardandolo fisso, gli porgeva l'anello. «Quando le infilerete l'anello al dito», disse Grugius, «metterete il sigillo solenne alla fedeltà che dovete ai vivi e ai morti. Vi state recando da lei per gli ultimi irrevocabili preparativi del matrimonio? Portatelo con voi». Il giovane prese l'astuccio e se lo mise in petto. «Se ci fosse qualcosa che non va per il suo verso, se ci fosse tra voi anche il minimo disaccordo, se foste intimamente consapevoli di compiere questo passo solo perché siete da tanto tempo abituati all'idea, allora», disse Grugius, «vi intimo ancora una volta in nome dei vivi e dei morti di riportarmi l'anello». Qui Buzzard si svegliò per il suo stesso russare e, come solitamente accade in questi casi, restò inebetito a fissare il vuoto, come sfidando il vuoto ad accusarlo di aver dormito. «Buzzard», disse Grugius più duro che mai. «Vi seguo, signore», disse Buzzard. «Vi ho seguito tutto il tempo. In esecuzione di un incarico ho consegnato al signor Drood un anello di diamanti e rubini. Lo vedete?» Edwin ritirò fuori l'astuccio e lo aprì e Buzzard ci guardò dentro. «Vi seguo entrambi, signori», rispose Buzzard, «e sono testimone della transazione». Evidentemente ansioso di andarsene e restar solo, Edwin Drood a quel punto si rimise mantello e sciarpa, mormorando qualcosa a proposito dell'ora e di un appuntamento. Secondo le ultime notizie riportate dal cameriere volante, atterrato dopo un volo esplorativo in direzione del caffè, la nebbia non si era diradata, ma lui si andò lo stesso e ci si infilò dentro e Buzzard, a modo suo, lo seguì. Grugius, rimasto solo, per un'ora e più camminò avanti e indietro, lentamente, senza far rumore. Non trovava pace quella notte e sembrava avvilito. «Spero di aver agito bene», disse. «L'appello che gli ho fatto mi pareva necessario. È stato doloroso perdere l'anello, ma se ne sarebbe andato comunque». chiuse il cassettino vuoto con un sospiro, chiuse a chiave lo scrittoio e tornò al suo caminetto solitario. «Chissà se il suo anello tornerà da me», proseguì. «Non faccio che pensarci stanotte, non trovo pace. Ma questo è comprensibile. L'ho avuto per tanto tempo e mi è stato così caro. Mi chiedo...» La sua mente era piena di domande, oltre che di inquietudine. Infatti, ricominciò a interrogarsi. «Mi chiedo, per la decimillesima volta, povero stupido che sono, che senso può avere ormai, se mi abbia affidato la cura della loro piccola orfana perché sapeva... Buon Dio, quanto assomiglia a sua madre! Mi chiedo se quando è comparso e l'ha conquistata, lo abbia mai sfiorato il sospetto che qualcuno l'adorava da lontano, senza parlare, senza sperare. Mi chiedo se abbia mai intuito chi fosse quel povero infelice. Mi chiedo se riuscirò a dormire stanotte. Ad ogni modo ci provo, tiro sulla coperta e chiudo fuori il mondo». Grugius attraversò il pianerottolo diretto alla sua gelida e nebbiosa camera da letto e fu presto pronto a coricarsi. Cogliendo fugacemente un opaco riflesso del suo viso nello specchio appannato, avvicinò per un attimo la candela. «Ma guardati, figurarsi se uno come te passa per la testa di qualcuno», esclamò. «Su, su, su, vattene a letto, povero uomo che sei, e smettila di ciarlare». Detto questo, spense la candela, si tirò su le coperte ben bene e con un altro sospiro chiuse fuori il mondo. Agnese Nano ha letto Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.